Caro direttore, condivido le sue osservazioni sulle fiammate di indignazione per fatti delittuosi, a cui non segue nessuna elaborazione mentale e di conseguenza alcuna modifica del comportamento dei cittadini, lasciando stare i politici che dei cittadini sono la diretta espressione. È l'unica idea che condivido con Prodi. Proprio per questo vorrei raccontare la mia piccola esperienza con una famiglia rom, kosovara, di religione musulmana. E dico poco. Circa 14 anni fa mi colpì una ragazza accoccolata con due bimbi all'angolo di una strada che chiedeva l'elemosina. Ho cominciato a parlare faticosamente con lei e via via si è sviluppata una conoscenza che continua fino ad oggi. Se li ho aiutati, e continuo ad aiutarli anche economicamente, non è stato certo per bontà o per un superiore ideale di fraternità, ma per avere il piacere di veder sorridere dei bambini e per curiosità verso un mondo che è sempre stato criminalizzato, anche quando le frontiere erano ben più protette. Senza contare il piacere di scandalizzare le amiche benestanti. Diciamo che ho fatto un esperimento un poco costoso, ma interessante. Partivo dal presupposto che se a queste persone non si fa intravedere una vita diversa, meno miserabile, non potranno mai inserirsi veramente. Nello stesso tempo, bisognava far capire che tutto quello che trovavano in Italia, assistenza medica, asili, scuole, assistenza sociale, era frutto del lavoro di tutti, me compresa, e che il lavoro era per loro l'unica speranza di miglioramento. Dopo 14 anni posso azzardare qualche bilancio. Direi che l'esperimento è pienamente riuscito con le 5 donne della famiglia. La figlia più grande, che ora ha 20 anni, pensa e si comporta come una ragazza italiana della stessa età. Ha un lavoro stabile, anche se poco qualificato, vorrebbe uscire con gli amici, andare qualche giorno al mare e così via. Anche la madre quarantenne impiega una grande energia nel mandare a scuola puliti e ordinati i figli e nel coltivare buoni rapporti con tante amiche italiane più o meno generose che si è fatta in questi anni. Sono tutti belli e questo non guasta nel suscitare interesse e simpatie. Da quando poi abitano in una casa del comune, l'affitto e le bollette l'hanno spinta a fare qualche ora di servizio fuori. Ma i maschi. Il padre dei 5 figli, messi al mondo pur in presenza di pillola anticoncezionale, ne ha fatte e fa di tutti i colori. Persino un tentato sequestro di persona con il quale è rimasto in carcere un tempo troppo breve ed è sotto giudizio. E nonostante questo, ha avuto rinnovato il permesso di soggiorno. Beve, diventa violento e picchia i familiari, soprattutto la moglie, alla quale rimprovera la troppa emancipazione. Ma la delusione più grande è l'unico figlio maschio che ha 18 anni. È un bel ragazzo, alto e forte e non ha voglia di fare nulla. Qui a Bologna il lavoro non manca, ma un rom kosovaro, privo di qualifiche professionali, dall'aria sfottente, supponente e sfaticata, non è giustamente gradito. L'unica attività esplicata dal giovanotto è quella di controllare e tormentare la sorella maggiore, che fornisce l'unica fonte di sostentamento di tutta la famiglia. Insomma, il giovane sta aspettando l'occasione per delinquere. E allora? Non sono pentita del mio esperimento, ma se devo azzardare una conclusione sulla base di ciò che ho visto e sentito anche in altre famiglie rom, è che l'integrazione dei rom o zingari che dir si vogliano, se mai avverrà, dovrà passare attraverso le donne. Perché non cominciare a dare il permesso di soggiorno alle madri, collegandole ai figli? Perché non fare i contratti delle case popolari intestati alle madri e non ai mariti ubriaconi e maneschi? In questo modo le donne stesse sarebbero più rispettate dagli stessi mariti violenti. Insomma, facciamo qualcosa oltre a indignarci. Scusandomi per la lettera a fiume, Laura.